shiver down spine, like a meaningless ride. Clock keep thinking, come rain or shine, just don't lie. It's the circle of life, it's a reason to cry. It's your stack while it passes by. Vengo da nulla e nulla resta il mio prodotto finale. Sconfiggo il nulla con la mente, il pensiero immortale. Lascio che il nulla mi rapisca nella sua spirale, dove non c'è bene male, solo indifferenza. Il tempo esiste, ne capto la presenza nello scorrere del fiume che asseconda le stagioni. Il tempo non esiste, così chiamiamo spiegazioni per lo scorrere silente delle stagioni migliori, sì. E i colori sono solo sfumature del vuoto, e il vuoto conferisce un senso ad una vita che ne avrebbe ben poco. È dal silenzio che ogni voce tiene il suo scopo. Ricerco verità nella menzogna, non c'è menzogna senza verità. La mia vita passa dalla morte, scrivo pensieri di morte in barre di carta. Time like a shiver down spine, like a meaningless ride. Love keep thinking, come rain or shine, just don't mind. It's the circle of life, it's a reason to cry. It's your stack while it passes by. Vengo da un posto dove il tempo non ha più importanza. Se la vita traccia linee sopra il palmo e gira sopra il polso, e questa passa, ma resta immobile sulla tua faccia. Zigrinature sulla guancia, rifletto la sfumature. Fermo minuti sul quadrante, che rincorrono a seconde la lancetta. Solleva il morale, leva il momento, la cui forza leva i sogni sopra il braccio per inerzia. E mentre resta nulla, sogni il mio pensiero è mortale. La mia condizione è tale che stare in silenzio no, nega di comunicare. Che se penso al tempo come assenza di movimento, penso a quanti non stanno vivendo un'illusione in maniera concreta. Quanti si stanno chiedendo se la vita è tale. Nell'indecisione il tempo sfuma, chi le insegue la tartaruga lepre lo assale. Time like a shiver down spine, like a meaningless ride. Clock keep thinking, come rain.